piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Una lite l'ennesima per una stradina comune tra le loro proprietà, ma questa volta è sfociata in tragedia. Carmelo Volo, 82 anni, muratore in pensione, non ne voleva proprio sapere di lasciare usare la servitù di passaggio al suo vicino, Bruno Piuri, 58 anni, imprenditore agricolo, sposato con una figlia di 26. Così ieri, al culmine del solito litigio, l'82enne incensurato è rientrato nella sua villetta di Misinto, Monza Brianza, ha preso la sua pistola regolarmente denunciata, è uscito nuovamente e trovando Piuri davanti al cancello di casa non ha esitato e ha fatto fuoco 5 volte. L'uomo è stato soccorso immediatamente, ma nonostante l'intervento dei sanitari non ce l'ha fatta. È soltanto un episodio di cronaca degli ultimi giorni, ma è uno degli episodi ricorrenti in cui esce fuori in maniera abbastanza decisa il fatto che i vicini hanno ricominciato a, diciamo, non volersi più il bene che noi pensavamo che fosse stato ormai suggellato dopo 3 mesi di lockdown. Ora, mi dispiace dover questa mattina farvi un elenco di fatti tragici e molti anche ad esito funesto degli ultimi giorni, ma addirittura delle ultime ore. L'ultimo è accaduto a Milano proprio poche ore fa. L'ispirazione a questa trasmissione ce l'ha dato proprio un lancio d'agenzia uscito un paio d'ore fa, ma ci viene da riflettere sul fatto che probabilmente tra i tanti propositi che ci eravamo fatti nei mesi in cui stavamo chiusi l'uno accanto all'altro, affratellati dal fatto che insomma avevamo tutti lo stesso problema, condividevamo tutti le stesse paure, insomma pensavamo che in realtà l'aspetto negativo di quello che abbiamo e stiamo ancora passando in questo difficile 2020 avesse in qualche maniera cambiato alcuni nostri atteggiamenti, alcuni nostri comportamenti, ci avesse reso, come molti affermavano con una frase piena di ottimismo e piena di buoni propositi, ci avrebbe reso migliori. Beh, il primo segnale della nostra socialità ristretta era proprio il diverso rapporto che avevamo con i nostri vicini di casa, con i nostri dirimpettai. Ricordate le ritualità fraterne degli inni cantati ai balconi, del non potersi vedere ma da dietro le mascherine lanciarsi occhiate solidali tra le persone che vedevamo in fila davanti al supermercato nei giorni terribili. E pensavamo che in fondo, dopo quello che avevamo passato, avremmo tutti visto con maggiore tolleranza le persone che avevamo vicino. Ma in realtà, almeno da una prima e forse superficiale analisi di fatti di cronaca, non sembra proprio così. Siccome ci siamo posti questa mattina questo dubbio, ma nel rapporto del vicinato ci ha resi migliori o peggiori il fatto che siamo stati tutti insieme, condiviso un problema omogeneo più o meno per tutti per vari mesi? Beh, questa mattina mi aspetto da voi una risposta che derivi dalla vostra esperienza personale. Questa mattina al telefono con Fabrizio Intonti, anche lui a casa sua come sono a casa io, ci siamo scambiati la stessa impressione sull'improvvisa virulenza di lavori di ristrutturazione nelle case. Sia io che lui eravamo colpiti da martelli pneumatici, martellate, che in sé sono un sintomo di gioia, di rinascita, di ritorno comunque all'idea di un rinnovamento, ma allo stesso tempo ci fanno risorgere antichi e probabilmente poco sopiti rancori nei confronti dei vicini di casa. 800 24 00 24, a voi questa mattina il sondaggio. Almeno dal punto di vista dei rapporti con i vicini, non sembrerebbe che l'esperienza del lockdown ci abbia reso migliori. È finita prestissimo l'epoca del volemmo sebbene, degli inni cantati ai balconi e della solidarietà condominiale. Le cronache di questi ultimi giorni parlano chiaro. Un uomo di 46 anni è stato arrestato poche ore fa a Milano per l'omicidio di un vicino di casa di 68 anni, accoltellato al culmine di una lite in un palazzo in via Trilussa. È accaduto attorno alle 2:45, quando l'uomo è salito al piano superiore armato filmato di un coltello da cucina con cui ha colpito l'anziano che vive con la moglie. L'anziano è morto pochi minuti dopo l'arrivo all'ospedale. Secondo quanto ricostruito finora, c'erano già stati altri scontri e tensioni. Dovrà rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona un ex carabiniere di 59 anni che giovedì scorso ha tenuto in ostaggio un 80enne e la figlia 44enne in un appartamento di via Lepanto a Oristano, da cui sosteneva di essere perseguitato. L'uomo è stato arrestato. Accoltella i vicini di casa per futili motivi. Arrestato sempre giovedì un 34enne messinese. I poliziotti, immediatamente intervenuti sul posto, hanno individuato le due vittime, padre e figlio, dalle quali hanno appreso che a seguito di una lite per futili motivi erano state poco prima colpite da un loro vicino di casa con un'arma da taglio. È finita nel sangue una lite tra vicini avvenuta il 21 giugno a Misinto, comune della provincia di Monza Brianza. La discussione pare per l'utilizzo di una strada privata. Colpito da 5 colpi di pistola, un uomo di 58 anni è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se anche per loro è tornata a farsi sentire la classica insofferenza per i propri fastidiosi vicini di casa, o se invece la lezione della convivenza forzata ha insegnato a essere più rispettosi e tolleranti. Chiamate l'800240024 e diteci in quale di queste tre categorie vi riconoscete di più. 1. Miglioristi condominiali. L'esperienza di vivere sigillati e uniti dalle stesse paure e gli stessi bisogni ci ha portato a vedere con occhio meno rabbioso quello che dei vicini ci infastidiva. 2. Conservatori insofferentisti. È stata solo una parentesi. Sono tornati i sacchetti della spazzatura fuori dalla porta e i bambini che fanno casino. 3. Peggioristi esasperati. Ora è peggio di prima. Sono esplose le ristrutturazioni selvagge in vista di sanatorie ed ecobonus. La gente è più stressata di prima e ha i nervi a fior di pelle. 800240024. Intanto ringrazio Peter Bescapè e Miriam Lucchetti a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, che mi stanno mandando in onda. Io, come al solito, sono home edition, rimango a casa mia e sono testimone di una certa insofferenza che sta salendo decisa in questo periodo, forse per la troppa bontà e la troppa tolleranza che abbiamo dovuto sopportare per vari mesi, forse perché ci siamo soffocati degli istinti bellicosi che probabilmente riemergono, forse perché è un momento molto particolare in cui le persone non hanno delle prospettive di vacanza, di relax, uscita anche economica dalla crisi, quindi sono tutti, compresi noi, più nervosi, più irritabili. E forse perché non abbiamo le consuete valvole di compensazione rispetto alla vita comune in un palazzo, in un condominio, in uno stabile che dividiamo con altre persone, o forse perché magari ci siamo stancati di dirci che ne usciremo migliori. Quindi 800240024, noi vi diamo tre possibilità di scelta rispetto agli atteggiamenti possibili. Ci piacerebbe capire se anche in questo caso il saremo migliori, ne usciremo migliori, deve essere comunque rivisto, riconsiderato, riponderato, o se magari in effetti è soltanto un'impressione, abbiamo soltanto collazionato alcuni episodi di cronaca nera degli ultimi giorni e ci siamo fatti un'idea. Ricordo le tre posizioni. Primo, miglioristi condominiali, l'esperienza di vivere sigillati, in effetti sì, ci ha fatto migliori, siamo più tolleranti, ci sentiamo in fondo memori di quello che abbiamo passato assieme ai nostri vicini, ci ricordiamo le file ai supermercati, ci ricordiamo la paura nel buttare la spazzatura, ci ricordiamo gli sparuti incontri nelle scale a distanza con le mascherine e quindi tutto sommato ne siamo migliori. Conservatori insofferentisti, è stata soltanto una parentesi, rivediamo gli stessi episodi che suscitavano la nostra bellicosità e quindi non è cambiato nulla. Peggioristi esasperati? No, ancora peggio, adesso è peggio di prima. Il fatto che si parli di ecobonus, di facilitazioni per l'edilizia, tutti hanno dato piglio a ristrutturazioni, quindi improvvisamente in questi giorni in cui le finestre sono aperte ricominciano i cantieri, anche noi a nostro tempo probabilmente abbiamo fatto la stessa cosa, ma ce lo siamo dimenticato. Poi la gente è più nervosa, è più stressata, ha i nervi a fior di pelle, quindi è peggio di prima. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Giuseppe da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Lei in quale di queste allora, tre... io... di queste tre categorie si sente più rappresentato innanzitutto? Sì. Allora io mi sento rappresentato più nella terza categoria, quella che vede un po' peggiorare le cose a seguito della ripresa delle attività, perché forse ci eravamo abituati a una diciamo, una tranquillità, una calma, un fatto che non ci si dava più tanto fastidio, invece adesso è ripreso un po' più. Ci manca il silenzio del lockdown e quindi ogni rumore ci sembra insopportabile. Ci sembra insopportabile. Ma lei ha qualche episodio suo personale, della sua esperienza, che dà l'idea che qualcosa è cambiato in peggio, almeno nella sua sfera? Dalla mia esperienza, avevo un cantiere proprio vicino casa dove ho sopportato dei rumori e dopo il lockdown è ripreso il rumore di un piede che hanno aperto nell'appartamento sopra casa, quindi mi conferma un momento che nella miseria statistica però, di due telefonate agli amici, tutti hanno ricominciato a ristrutturare, il che è anche un bene perché si rimette in moto il lavoro, l'edilizia, le case sono più accoglienti, saranno più diciamo dal punto di vista energetico sfidanti. Però allo stesso tempo, in questo momento in cui pian piano ci riabituiamo alla vita normale, ricominciano il via via degli operai, vai a vai degli operai, gli ascensori sporchi, le botte, i rumori, le litigi, i cartelli degli umarell, non si trasporta nell'ascensore, non è un montacarichi, le pile di mattoni. Insomma, è un po' difficile col martello pneumatico che ti batte sulla testa anche fare questa diretta, diciamoci la verità. Sentiamo Ferdinando da Bari. Lei da che parte sta di queste tre posizioni? Si definisca innanzitutto. Io ho una posizione che, finito il lockdown, è ritornato tutto normalmente, giustamente, come prima, nel senso che il lockdown è una fase emotiva e ci si è spesso in questo senso. Il limite è sempre lo stesso. Gli conservatorista, sono... conservatorista indifferente. No. Ecco. Io sono conservatorista rivoluzionario, nel senso che senza un modello pedagogico, come la sua, anche se lei ha una qualità altissima nell'essere cinico, tra virgolette, nel modo di esprimersi, e la sua è una trasmissione pedagogica. Il fallimento è tutto nella scuola. La scuola, anche adesso si fa polemiche sulla scuola, ma su cosa la scuola? La scuola intesa come oggetto, come struttura, ma come modello pedagogico. Nessuno lo mette in discussione. E quindi non aspettiamoci nessun cambiamento nei modelli pedagogici. Invece il problema è tutto della scuola, non c'entra nulla il lockdown, ma diciamo la tolleranza tra vicini va insegnata a scuola. Ma sa, solo perché qualcuno ha provato a azzardare l'idea che l'educazione civica cominciasse in età molto precoce, già subito sono state levate discussioni, come a 3 anni insegnare educazione civica ai bambini? Cioè, mi sembra in una situazione, un momento in cui chi pensa alla scuola, qualunque cosa faccia, c'è sempre chi è pronto a criticarlo. Mi sembrava un'ottima idea cominciare a insegnare ai bambini anche da piccoli alcuni rudimenti di educazione civica, non necessariamente erano norme giuridiche da imparare a memoria, ma anche semplicemente capire che la tolleranza nei confronti di chi ci vive a casa e non creare problemi agli altri forse era una strada. Grazie. Gianna da Roma. Gianna, sì, buongiorno. Definisca la sua posizione. La mia posizione in che senso, mi scusi? Rispetto a questo sondaggio, lei pensa che le cose sono peggiorate, sono rimaste indifferenti o sono migliorate? No, assolutamente no, non sono né peggiorate, sono sicuramente peggio di prima, nel senso che durante la chiusura totale eravamo tutti allegri, si parlava dal balcone, persone che non si conoscevano si sono scambiate notizie, io ho la casa qui, ho la casa là, mio figlio qui, a scuola, eccetera. Quando poi la chiusura totale è terminata, siamo usciti in strada, ci si è incontrati casualmente e a malapena ci si è detti buongiorno, ma di sfuggita, senza fermarsi. Cioè tutta quell'amicizia, tra virgolette, che poteva apparire in quei 2 mesi è svanita completamente nel momento in cui... Il momento infausto, esatto. Ritorna tutto come prima. Sì, finito lo stigma della sofferenza che avevamo tutti addosso, ritorniamo a vedere il vicino come... una persona che limita la nostra libertà di espressione. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se anche per loro è tornata a farsi sentire la classica insofferenza per i propri fastidiosi vicini di casa, o se invece la lezione della convivenza forzata ha insegnato a essere più rispettosi e tolleranti. Chiamate l'800240024 e diteci in quale di queste tre categorie vi riconoscete di più. 1. Miglioristi condominiali. L'esperienza di vivere sigillati e uniti dalle stesse paure e gli stessi bisogni ci ha portato a vedere con occhio meno rabbioso quello che dei vicini ci infastidiva. 2. Conservatori insofferentisti. È stata solo una parentesi. Sono tornati i sacchetti della spazzatura fuori dalla porta e i bambini che fanno casino. 3. Peggioristi esasperati. Ora è peggio di prima. Sono esplose le ristrutturazioni selvagge in vista di sanatorie ed ecobonus. La gente è più stressata di prima e ha i nervi a fior di pelle. 800240024. Stanno chiamando moltissime persone, quindi evidentemente questa riflessione appassiona chi ci ascolta. Sentiamo Luciana da Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Io faccio la mia esperienza, mi sono ammalata di Covid-19 e dopo, quando glielo dico a qualcuno, scappano, si allontanano, e tante persone che prima mi salutavano non mi salutano perché mi dà quasi l'impressione di essere ritornata al periodo di Manzoni con la peste e dai aiutoni. E ho, ecco, ma come fanno a sapere che lei è stata ammalata? Diciamo, perché è girata la voce. Dicono come stai, come non stai, ho detto ho avuto la malattia, ma adesso sono guarita, i tamponi sono negativi, e mi rispondono, ma può darsi che tu che ritorni a malattia. E quindi, anzi, tante persone che prima mi salutavano stanno lontane perché hanno paura che io le contagi ancora. E questa quindi è si sente discriminata per il fatto che, come tantissime persone, ha avuto il Covid-19, ne è uscita bene, sta bene, si sente ancora, diciamo, vista con sospetto. Questo anche dai vicini di casa, proprio le persone con cui vive, diciamo, in maniera promiscua, quotidiana. Persone vicine che vado a salutare, che ad esempio dove vado a fare ginnastica, che prima mi salutavano, adesso non mi salutano più e stanno distanti. Ecco, distanza le vedo molto, molto, no? Molto sinceramente controllate e quindi sospettose. E quindi questo speravo che le cose cambiassero, e invece purtroppo quando dico a una persona ti posso venire a trovare, non lo so perché ho paura di contagiarti, ma io mi sono guarita, e quindi capisco che lei ha paura che vada a trovarla per contagiarla, perché non ho ancora capito che io ormai la malattia l'ho superata e i tamponi sono negativi. Questo avviene anche con i suoi familiari, Luciana, con le persone della famiglia? Allora, con un familiare sì, quando sono andata ma disinfettato tutto, ma disinfettato perfino i piedi, ho dovuto fare tutto, perfino lo spray sotto le suole delle scarpe. Ecco, cioè, comunque che fosse una persona infetta, portatrice di un'infezione. Ma lei non ha provato a far capire, a spiegare? Poi non è stupido, perché anche laureato, voglio dire, non è perché sia laureato, però la paura è così forte che alla fine non riescono più a capire dove il giusto. Ma diciamo, Luciana, la paura diventa qualcosa che si rimuove quando noi vogliamo riprendere le nostre abitudini, quindi riammassarci nei locali, andare per strada, fare gli spavaldi, che non c'è bisogno di cautele, così. Assume comunque un carattere tangibile quando abbiamo davanti qualcuno a cui imputare comunque una responsabilità. Quindi io non ho paura, il Covid è tutto inventato e non devo mettermi la mascherina, però Luciana ce l'ha avuta, quindi tutto sommato fa parte delle persone che sono state toccate, quindi me ne tengo lontano. Guardi Luciana, lei mi ha dato l'idea di una trasmissione che farò non domani, che ho già pensato l'argomento, ma dopodomani vorrei fare proprio l'argomento di quelli che hanno avuto il Covid. Qual è la vita di chi l'ha avuto e chi si sa che l'ha avuto? Perché l'idea che possa esistere una sottile e irrazionale discriminazione nei fatti di chi ha passato la malattia non ha più assolutamente più occasione di contagio, mi interessa molto. Grazie. Giovanni da Udine. Sì, buongiorno. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno. Io credo che la gente, dopo una paura enorme che ha cacitato sempre il protagonismo onnipotente degli italiani, dopo passato questo brevissimo periodo la gente è tornata come prima, peggio di prima, se ne frega del vicino, ma non si tratta di scuola, si tratta della famiglia, perché i propri figli, i propri cani, i propri gatti possono fare qualsiasi cosa, perché l'italiano medio pensa che nella sua famiglia i membri, compresi anche gli animali, possono fare qualsiasi cosa, sono onnipotenti, questo si diciamo sa, che c'è stato, sono sempre. Stati dei mesi in cui abbiamo sopportato tutti, io sopportavo la vicina che mi saltava sulla testa perché sapevo che era giusto, che era un diciamo della sua forma fisica, era il suo strumento di lavoro, quindi logicamente allenarsi tutti i giorni, saltare, ballare, oggi probabilmente lo sopporterei meno, ma non è che farei nulla, solo dentro di me direi ma guardate un po'. Allora sopportavo, che poi magari io facevo la stessa cosa con più silenzio perché usavo strumenti non rumorosi, però diciamo passato il momento riaffiora tutto, insomma non avevamo elaborato nulla. Andrea, provincia di Varese. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia... Lei Andrea? Sì. La sento malissimo. Però stia fermo perché sennò sento soltanto un gran rumore. Cerchi di muoversi per l'istante che parla, in cui parla. Sì, stavo dicendo che la mia interpretazione di questa cosa è un po' No, Andrea, guardi, c'è come una sorta di mostro marino che sta rumoreggiando alle sue spalle. La richiamiamo in modo che abbiamo una telefonata migliore, perché sennò sembra che lei stia combattendo con una sorta di dinosauro sopravvissuto e non capiamo niente. Veronica, da Savona. Buongiorno. Ecco, la sento meglio. Sì. Buongiorno. Allora, la gente anche prima di lockdown, vicini, erano aggressivi, prepotenti, con martello pneumatico, faceva ristrutturazione, già ha avuto bonus. Si prova di la ristrutturazione, io lo dico perché sì, di natura sono rompiscatole. È lecito farla, basta mettere un bel cartello, ci scusiamo con i vicini, ma è in orario consentito. Gli appartamenti è giusto siano ristrutturati. C'è movimento di lavoro, miglioramento della vita generale, delle condizioni di sicurezza. Lo so che è fastidioso, ma tutti noi prima o poi ristrutturiamo casa. Mi rendo conto che adesso ci sembra strano che eravamo abituati a un silenzio tombale per mesi. Fusamente risentiamo gli operai, rivediamo il rumore. Questo, diciamo... è un irrazionale nostro senso di fastidio, ma le altre manifestazioni che lei nota, le nota peggiorate, quelle che ha appena accennato? No, mi sembra anzi migliorate. Io abitavo in Genova, in affitto, vicini di casa hanno preso questo bonus di per ristrutturazione, ha avuto sconti, non lo so di cosa. Beh, adesso tutti speriamo di ristrutturare con delle buone condizioni, siamo in attesa dei decreti per questo eco bonus, tutti abbiamo qualcosa da migliorare a casa nostra e che siamo facilitati, non possiamo essere che soddisfatti. Mi sembra questa non mi sembra una cosa negativa, però mi rendo conto che nel numero dei tanti fastidi che riemergono, anche questo viene per noi, diciamo, una circostanza, ci fa diventare meno disposti alla tolleranza. Ecco, Attilio, provincia di Lucca, buongiorno. Salve, scusate la linea, ma non ho una piazzola dove fermarmi, proviamo. Sentiamo, allora, spero che abbia viva voce. Sì, per quel che mi riguarda nulla è cambiato ai fini personali. E vorrei portare questo contributo. Purtroppo io faccio il volontario in ambulanza. Purtroppo devo riscontrare che nel periodo del Covid non venivamo praticamente quasi mai chiamati, non uscivamo mai salvo la squadra addetto al Covid. Quindi la gente aveva paura e non c'era l'abuso su 118. Stiamo abbassando la guardia riguardo al Covid e siamo ai punti di prima per chiamate, definirei che potrebbero essere non importanti, che potrebbero essere gestite in modo completamente diverso. Quindi questo per dire... Diciamo ha rispuntato l'ipocondriaco che blocca i servizi per cose futili quando potrebbe farne meno. Bravissimo. Mi faccio un esempio di chiamata inutile. Vi faccio un esempio, la più frequente, così Una signora facendo pipì aveva riscontrato una goccia di sangue e ha chiamato il 118. Questa è una delle tante, purtroppo. In quel caso come vi comportate? Noi dobbiamo uscire perché noi il 118 ci chiama e noi dobbiamo uscire. Ma la signora uscire. Fa? Signora col bicchiere, con l'orina, con la goccia di sangue, cosa fate? Gliela analizzate? Cosa fate? Perché la portiamo ovviamente in pronto soccorso. Noi non essendo medici chiediamo, oltretutto segnaliamo il tutto al 118, il 118 ovviamente se l'utente vuole essere portato in pronto soccorso non ci possiamo esimere. Non vi potete rifiutare, certo. Assolutamente, però c'è questo grande, le assicuro, questo grande abuso a discapito di chi realmente può avere in quei momenti necessità di un'ambulanza. Questo è un altro tema che mi interessa. Ci segniamo il suo numero di telefono perché vorrei sapere le casistiche, perché la goccia di sangue nella pipì mi sembra veramente un caso da manuale, ma ce ne saranno sicuramente altre, sarà senz'altro interessante approfondirle. Noi ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, quali sono le mutazioni nella nostra percezione del vicinato, del nostro atteggiamento alla tolleranza? Sono riemerse tutte le discriminazioni, le paure, le rabbie, i rancori nei confronti dei nostri vicini? Lo sentiamo con il pubblico attraverso un sondaggio. Andrea da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Dunque, io mi sono, inserito perché faccio un mestiere che insomma un osservatorio abbastanza specifico, faccio l'amministratore di condomini, ho riniziato quindi lei, a fare è al centro di ogni tensione, quindi figuriamoci. Quello nell'ordinarietà sempre. Poi abbiamo riniziato a fare le assemblee, ne abbiamo fatto già una trentina da quando c'è stata la riapertura, quindi dal 6 di giugno. Prima le facevate su Zoom anche voi durante questi mesi? No. L'assemblea via Zoom? No. No, perché le riteniamo non legali e quindi quindi laddove sì. Poi si doveva andare a decidere delle cose, non avevano come dire. Diciamo la verità, gli abitué da assemblea di condominio non sono molto tecnologici. Solito magari abbiamo fatto la proposta che diventassero tecnologici, ma purtroppo questo. Sì. Cioè, il condominio, come dire, è un ente molto astratto, per cui non viene mai, come si dice. Non assume mai una dignità professionale ben precisa, per cui quando c'è stato poi tutto il dibattito sui codici quindi Adecco, per cui la prima riunione di condominio post lockdown come le vede? Cosa emerge? Esatto, volevo dire questo, cioè le vedo più tese ovviamente, più agguerrite, più partecipate, incredibilmente più partecipate, nel senso che anche numericamente, siccome l'assemblea di condominio non è mai stato il luogo in cui la gente si affollava per poter andare, insomma, per cui invece quelle successive appunto alla riapertura abbiamo visto che nonostante le raccomandazioni fossero di dare le eleghe lei è presente quando Fantozzi va in pensione che incontra la signorina Silvani che millanta sì. Una vita mondana gli diceva dalla riunione condominio dice, mi ci porti Fantozzi si vede un sacco di gente e in effetti può essere sia qualcosa del genere. Grazie Guido da Milano. Guido buongiorno. Grazie per Guido. La partecipazione e volevo chiedere solo una cosa, vorrei essere un po' positivo perché sento solo cose negative di questa cosa del Covid. La prima risposta al sondaggio era per le persone positive, io pongo le domande sicuramente io sono stato contento di questa situazione indipendentemente da ciò che è successo, perché mi ha dato adito di conoscere dei condomini che vedevo solo di passaggio perché tutti viviamo la nostra vita e abbiamo fatto tantissime cose, noi siamo in 18 in questo condominio e chi con la sua professione, chi con un'altra, hanno fatto delle cose incredibili che penso che nella mia vita non avrei mai fatto, come titolare un cancello, restituire un punto dove c'era una spazzatura. Ma siete riusciti a mantenere nel tempo? Lo stiamo mantenendo perché guardi, adesso questa noi nuova abbiamo solidarietà. Programmato di farci una cena assieme la prima occasione, quando ci si sarà permesso anche dalle nuove disposizioni. E veramente abbiamo fatto una bella coalizione perché prima. Ma non era esclusa questa opzione, Guido, anzi era auspicabile, sono contento. Qualcuno ha messo a frutto la promiscuità forzata, la necessità di vivere in maniera emergenziale e ha rimesso le basi per una nuova convivenza. Voi vivrete senz'altro meglio degli altri, avrete sicuramente una vita più serena e vi verrete incontro anche nei problemi che potrebbero in teoria dividere, quindi avete fatto qualcosa di ammirevole senz'altro. Loredana da Roma. No, salve, sì, eccomi, buongiorno. No, sì, diciamo l'argomentazione è molto interessante, perché durante il mio Covid, essendo anche un po' in cassa integrazione, ho avuto questi bimbi costantemente sotto la mia finestra, alle 2, all'1, alle 3:30, nonostante io abbia una figlia, quindi sono abbastanza tollerante. Uno spazio comune, un cortile? Abbiamo sì, un piccolo cortile, quindi questi bimbi scendevano incuranti dei genitori. Era l'unico posto dove potevano andare. Effettivamente abbiamo tollerato, però diciamo poi tutto comunque è tornato come era prima, quindi indifferenza completa. Non abbiamo avuto grossi riscontri e ricavato dei vantaggi da questa forzatura in casa, e quindi insomma questo un po' mi dispiace, perché sembra tutto un po' relativo al periodo emergenziale, insomma. Però è un pochino, la storia dell'umanità ci racconta che accade sempre così, sì, le difficoltà purtroppo apparentemente fanno dimenticare le differenze, i motivi di disagio e discriminazione, quando si ritorna a splendere il sole per tutti, riemerge tutto. Elvira, da provincia di Monza Brianza, Elvira, buongiorno. Buongiorno, allora io secondo me non è cambiato nulla. Una mia amica, che è anche mia vicina di casa, mi ha detto di togliere la bandiera perché il virus è passato. Ora io sto pensando seriamente di togliere la bandiera prima che questa mi uccida, non si sa mai. La bandiera italiana, adesso non si sì, tricolore, la bandiera non italiana. Ha più senso. Bandiera italiana. Scusi, se le piace, perché non può tenere la bandiera? Cioè, non è che la bandiera si sventola soltanto quando... non si sa mai che questa mi uccida. No, sto dicendo una battuta. No, perché io, a me piace essere unica e originale, la bandiera la volevo tenere per sempre. Però dopo questa richiesta, che mi ha dato parecchio fastidio, devo essere sincera. Ma come gliel'ha detto? Togli questa bandiera che ormai non c'è più. No, sì, io le ho telefonato per farle un complimento e lei per tutta risposta mi ha detto: ma senti, ma quella bandiera perché non la togli che adesso non c'è più il virus? Ma perché gli dava fastidio, non so, le ombreggiava i panni stesi, qual era il problema? No, io abito a pian terreno e la mia bandiera non dà fastidio a nessuno, però devo essere sincera, io vado in giro parecchio per strada e cammino e di bandiere ne vedo pochissime, allora ti viene il dubbio di dire ma forse sei l'unica. Guardi, io però... ho un colpo d'occhio mentre parlo con lei dalla mia cameretta, dal mio triste tugurio, da soltanto a un grande... condominio interno, vedo solo palazzi, 7-8 palazzi, e vedo centinaia di finestre, non c'è una bandiera, lei ha ragione, una volta era costellato di bandiere, sembrava una festa paesana, oggi non c'è più nemmeno una bandiera, quindi posso capire senz'altro. Allora andiamo avanti, facciamo ancora in tempo a fare un'altra telefonata, chiusa 55:30, 54, abbiamo un minuto e mezzo. Certo, Luigi, provincia di Salerno. Salve, buongiorno. Sì. Il suo punto di vista. La mia opinione è che in realtà l'essere umano, a seconda della propria educazione, della propria famiglia, della cultura che esprime, non in senso scolastico ma umano, appunto, in qualche maniera mantiene invariate le sue peculiarità. È chiaro che in questo momento la prospettiva di un futuro incerto esaspera gli animi, questo è palese. C'è da dire poi che c'è una certa distinzione territoriale, noi siamo tutti italiani e siamo tutti in ugual misura valutati e valutiamo, però è un problema anche di conoscenza dei rapporti interpersonali, quindi delle leggi che sovrintendono a questo tipo di dinamiche sociali. Per esempio, sì, vabbè, Luigi, alla fine, secondo lei, è cambiato o non è cambiato? Mi sembra che l'essere umano non cambierà mai, e, diciamo, si ripete, è un ricorso storico che abbiamo già conosciuto, abbiamo già visto, quindi abbiamo avuto la conferma di un nostro sospetto più o meno, a parte un caso di fortunata circostanza, mi sembra che tutto torni come prima, se non peggio di prima. Grazie, alla prossima.